È il momento più dolce e atteso della neomamma. La donna finalmente diventa madre. È un miracolo. È il mistero della vita che si compie. E dopo atroci dolori, senti che dal basso ventre ti sguscia in su una specie di susina rinsecchita, che sbava come una dozzina di lumache, macchiata di sangue e roba gialla. Questa cosa, non si sa come, riesce ad arrivare fino al tuo seno, è incredibile ma vero, ti si attacca. Come ha fatto non lo sai, ma una cosa la capisci. Inizia una vita, sì, un'altra finisce. Lui nasce e tu ti guardi intorno, cerchi il tuo compagno, ti ricordi delle sue parole, tesoro, stai tranquilla, ci sarò io accanto a te. Perché lui, lo spavaldo, durante il corso preparto faceva il figo. Dai amore, hai capito cosa ha detto la dottoressa? Stai tranquilla, prova a respirare, prova, dai, prova, respira, prova, dai. No, ma non vedi come fanno le acque, stai tranquilla. Tranquilla è una di quelle parole che mandano le mamme. Quello che una volta era lo spavaldo di tuo marito ora è un vaccello, con la tuta cerata, verde ramarro, che danno in dotazione in ospedale. Sì, c'è una grande macchina distributrice, tipo quella delle bevande e delle merendine, ma tu invece del TUC puoi prendere lavande vaginali, assorbenti, pannoloni per donne sgravate, o appunto le tute per i mariti martiri, a soli 5 euro. Dotazione in corno. Le tute ce l'hanno tutti i mariti che vogliono partecipare al parto, come se fosse una specie di party. Loro si autoinvitano, si imbucano e fanno pure le foto stile deficienti. Mio marito entra, mi vede gambe all'aria col divaricatore e sviene. Io ho partorito cercando di tirare su il morale a lui. Era immobile, un mentecatto nella posizione del primate, incapace di emettere un suono, con un sorriso ebete e orgoglioso stampato in faccia. A te ti stanno richiudendo la ferita coi punti, hai perso tutto il sangue che avevi, la cosa bavosa ti sta succhiando l'ultimo sospiro di vita e lui tutto sudato. Lui, ma che cazzo ha fatto il coglione? Stai tranquilla, rilassati, zitto, capisce? Desiste e tace, ma sempre con quel sorriso ebete stampato in faccia. Nel mio ospedale la regola è il ruminin. Bello, vero? Sapete che significa? Che te lo ammollano appena nato, giorno e notte, e tu non ti riposi neanche un secondo, morta di sonno, bianca come una mozzarella andata a mare. Non dorme, piange sempre. Cercavo conforto, così, ma stai tranquilla, è normale. No, non è normale, gli altri bambini non piangono così. Ah, tutte uguali, voi mamma, il vostro è sempre speciale. No, io non ho detto. Sto dicendo che ho un problema, questa è una richiesta d'aiuto, S.O.S. Passavo il tempo con Belfagor. Sì, io ho il coraggio di ammetterlo, quando nascono i bambini sono brutti, sono tutti rugosi, dei mostriciattoli e strillano sempre. Provavo ad attaccarlo per ora e mi faceva un male cane, sicché una mia amica mi porta le tettarelle di plastica, con quelle andava un po' meglio, almeno non rischiavo l'amputazione del capezzolo. Ma continuava a piangere, ma perché, amore mio, perché? Una notte suono il campanello per chiedere aiuto. Le infermiere fanno i turni di notte, no? Sono pagate per questo. Ma se le chiami, ti guardano come se avessi buttato giù dal letto, a casa loro, attaccandoti al citofono. Piange. Attaccalo. Ma non si attacca. E tu riprovaci. Sì, ma forse sono io che non sono capace. Forse è colpa mia. Su tutte le riviste che avevo letto c'era scritto che bisogna infondere al bambino serenità, affetto e che soprattutto una mamma rilassata fa bene al suo bambino. Perché loro, i bambini, sentono tutto. Se tu sei nervosa, lui lo sente. Se tu non sei serena, lui lo sente. E che palle, ma che ho fatto io, un figlio o una donna? Ma io dico io chi sono, esisto io. No, rimossa, dismessa, cancellata, col pancione sei una risorsa. Senza pancione un involucro è scaduto, arrivederci e grazie, non sapevi più. Ma io invece esisto, esisto, sono la madre, sono nervosa, sì, sono nervosa, mi girano. No, no, amore della mamma, no, no, la mamma non le gira, no, no, no, la mamma è solo un pochino stanca. Ma lei è il letto numero 37? A parlare l'unica infermiera con un briciolo di coscienza. Ma non le hanno dato l'aggiuntina? Aggiuntina? Che cazzo è l'aggiuntina? Le escono le palle dagli occhi, capisco che è grave. L'aggiuntina. Mio figlio avrebbe dovuto averla dal primo giorno. Nervosamente sfoglia le scartoffie e non l'ha avuta. Prende un piccolo biberon. Lo stesso piccolo biberon che avevo visto in dotazione alle altre mamme, ma non capivo. Perché ti fini? Sei lì, distrutta, rincoglionita e ti fini. Se non me lo danno vuol dire che non ne ha bisogno, ti fini. Io non avevo una mamma accanto che mi spiegava, tutte le altre donne erano circondate dall'amore delle loro mamme. La mia ha un'atrofia cerebrale all'emisfero sinistro. Nessun consiglio esperto, logico, semplice. Ha mai mangiato? No? Allora ci vuole l'aggiuntina. Era ovvio, santi Dio, piangeva perché da quando era nato non era mai riuscito a mangiare abbastanza. E infatti, appena gli ho dato l'aggiuntina, a momenti si mangia pure il biberon, se ne è succhiato in un istante. Con tanta aria. Troppa. Da quel momento ha cominciato a soffrire di reflusso gastroesofageo. Ma, mi dice una suora giapponese, aggiuntina bene, ma devi attaccare il bambino. E dove? Al muro, il mio non si attacca. Ed ecco che ho avuto il piacere di avere a che fare con il mitico tiralatte, l'arnese sadomaso degli anni 2000. La mia amica Arianna appena l'ha visto ha gridato al miracolo, oh, mo presti che domani c'è un appuntamento al buio. Il tiralatte, tu metti il capezzolo, lui lo strizza, lo tira. Il liquido con laggiù lo metti nel biberon e lo somministri alla creatura. In 30-45 minuti riuscivo a confezionare un biberon di 40 ml quando andava bene. Sicché un'amica mi porta il tiralatte elettronico, strizza automaticamente, elettricamente, autonomamente la tetta. Un male boia. Emette un rumore che sembra un tritacarne e in qualche modo non è. Ho ringraziato l'amica. Mio marito va a prendere la macchina. Si va a casa. Le donne che aspettano fuori dall'ospedale con il nuovo arrivato sono tutte uguali, sembrano tossiche in avanzato stato di decomposizione. Dopo il parto non sei più una donna, io avevo la pancia sblusata. Arrancavo il passo perché mi avevano messo dei pantaloni enormi, con i punti, non potevo stare seduta. Volà, non so, capace, insomma, una tragedia. Guardavo quel pallocchetto rampolante. Sono sua madre. Iniziavo a rendermi conto che non ero più sola. E per sempre. È una sensazione strana. Tanta gioia, sì, ma tanta paura. Paura non di qualcosa di reale, paura della paura d'avere paura. Paura di non farcela. Lui piange e tu non capisci che cos'ha. Dicono che le mamme capiscono istintivamente i loro bambini. No, non è vero, non è così. Non sempre, non subito. Non io. Casa? No. Inferno. Una volta a casa il difficile è capire come vestirlo, cambiarlo, fargli il bagnetto, maneggiare il coso. La manutenzione di un ragnetto di un mese è più difficile di una Ferrari, più costoso e a me ha dato molte meno soddisfazioni. Ero H24 seduta sul letto con la vestaglia aperta sul petto. Appena cominciava a starnazzare cercavo goffamente di infilarmi una tetta in bocca, ma prima dovevo mettere la tettarella di plastica e da sola manco Udini. Non ci capivo più nulla, mi sentivo sempre inadeguata. Nei rari momenti di calma, quando aveva preso un po' di latte ed era riuscita a dormire un po', lo guardavo e mi sembrava un angioletto e gli sussurravo: amore, amore, sono io la tua mamma, mi senti? Tu Tu sei il mio angelo bello, il mio tesoro, amore. Hai capito? Sono la mamma che ti ama tanto, tanto, tanto. Ma che fai? Mi dopo in faccia? Che schifo, dai, che tempismo! Si svegliava e ricominciava a piangere. E io ricominciavo a sentirmi inadeguata. Sentirsi in colpa, sempre, è terribile. Intanto quelli del vicinato continuavano a venirmi a trovare, cercando di sapere se c'era qualcosa che mi serviva. Sai, l'ho sentito piangere alle 2:15, alle 3:20, alle 4:50, alle 5:30, alle 6:30, ma gli dai da mangiare? No, certo che no, brutta stronza insensibile e indelicata, ma le fanno crepare di fame, ti vedo stanca, vaffanculo! Guarda che se vuoi allattare devi diventare i minestroni, i brodini, beh, facciamo così, stai tu con i gremlins e fammi il brodino di pollo e io mi riposo alla faccia tua, ma dai che prima o poi si assesta. Belzebù ha quasi 3 anni e col cazzo che si è assestato. Ha solo aumentato i suoi poteri paranormali. Perché lui ha i poteri. Il problema è che in ospedale non fa bene. Avrebbero dovuto dirmelo. Guardi, signora, dopo accurate indagini abbiamo scoperto che il suo bambino non è vivo, è posseduto. Sembra un bel bambino, ma in realtà è un nano camionista. Rotto, coatto, analfabeta, insomma una bestia. Dai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, mi abbracciamo forte, forte. No, non ce la faccio, ho bisogno di qualcuno che mi abbracci, che mi stringa forte, ho bisogno di qualcuno accanto. Dai, ce la fai, no. No, non ce la faccio, amore della mamma, non ho le forze. Sì, ce la fai. E mi si piegava lo stomaco. Avevo imparato a piangere dentro. Dentro di me, zitta, zitta. Un sibilo. Silenzioso come le lacrime che mi sgorgavano fitte, fitte, svelte, svelte. Io piangevo. Il mio piccolino piangeva. Piangevamo. Io e lui. Dio mio, aiutami. Aiutami, ti prego, sta male, aiutami. Fallo stare bene e tranquillo come tutti gli altri. Intanto con mio marito le cose cominciavano ad andare male, c'era molta tensione. Tu non devi dire che lui non è normale, è nella tua testa che non lo è, è questo che sbagli, sì. Sbaglio io. Cioè, tutti bravi a dire, a giudicare, tutti che sanno che cosa c'è e perché dentro la mia testa, ma nessuno che mi ascolti. Mi sentivo sola, contro tutti e contro me. Ma dai, ti farà pure perdere un po' di sonno, ma guarda quanto bello. E fallo essere pure brutto! Mi vergogno ad ammetterlo, ma l'ho pensato. E se fosse stato brutto, che avrei fatto? Mi sarei buttata dalla finestra! Lo so, è terribile. Ma almeno guardandolo mi consolavo. Agli occhi ceruli di mia nonna, profondi, caramellosi. Mi ci perdevo e mi ci perdo. Tutti i bambini quando nascono hanno gli occhi chiari. Tiè! La porta sfiga! E invece sono rimasti belli, azzurri. È bello davvero mio figlio, bello come il sole, ha una luce particolare, ma veramente anche Lucifero aveva una luce particolare. Oh, Dio, ma che cosa dici, cretino, ma che davvero stai diventando pazza, zitta, zitta, zitta, zitta, zitta, sono stanca, ho i pensieri stanchi. E anche il cuore forte. Le amiche mi avevano riempito di riviste. Cercavo qualche conforto, qualche consiglio utile. Ogni tanto tra gli strepiti riuscivo a leggere qualcosa. La fatica del parto lascia il segno. Oh. Le fluttuazioni ormonali contribuiscono a creare uno stato di stress. Oh. Quindi è normale stanche e abbattute. Oh! La cosa fondamentale per superare questo momento è affrontarlo preparate e consapevoli. Dio, che odio ste riviste che ti consigliano di organizzarti, ma va! Pensavo di non farlo assolutamente, guarda! La cosa importante è stabilire delle priorità e mettere da parte ciò che non è urgente, ma va! Guarda! Pensavo di farmi un ciao e il cucù di nonna, di fare il pagliame, il buccettino preso a Bogotà, non posso certo rimandare! Fanculo! Considerate il vostro bambino la vostra attività principale e godetevi dei momenti che state con lui. No. Non ci sono dei. Noi stiamo soli, se ne va a fanculo! Fatevi aiutare il più possibile in casa e prendetevi delle pause di relax quando il bambino ve lo concede. Una doccia lunga e distensiva, la lettura di un libro, l'ascolto di un disco. Ma chi le sa queste cose? Ma lo sai? Come ti chiami? Mio figlio sta male, piange di continuo! E così iniziamo la via crucis dei dottori. Tu non lo sapevi, ma improvvisamente tutti quelli che frequenti conoscono il miglior gastroenterologo della città. E tu li vedi tutti. Prima in ospedale fai delle file interminabili perché sei un pivello. Poi vai in intramenia, un modo carino per dire vieni nel pubblico e paga da privato, coglione che non sai altro. Poi vai dai dottoroni, 150 euro a botta. Signore, ma questo bambino è il ritratto della salute, gli dia i Gaviscon a rivederci. Signora, dopo mangiato lo deve tenere dritto, con la schiena dritta, per almeno 45 minuti. Anche la notte. Signora, vogliamo farlo star male? Se mangia la notte, anche la notte gli dia il Reofluor. Reofluor, stessi principi del Gaviscon, altra casa farmaceutica da far felice. Per il reflusso, gli dia lo Zantac! New Entry Zantac! Stesse scene con siringhe e urla. Sì, perché l'unica maniera di somministrare a un bimbo così piccolo queste schifezze è quella di infilargli in bocca una siringa. Non cambia nulla. Gli dia il Rio Pan. Precauzioni per l'uso. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 12 anni. È la volta dell'Impidex. Ah, almeno il nome è un po' rassicurante, limpido come l'acqua, leggo il bugiardino. È un lansoprazolo che è un inibitore della pompa protonica. Effetti indesiderati, cefalea, capogiro, diarrea, flatulenza, depressione. Modifica nella quota dei globuli rossi, vomito, diarrea, capogiro, stitichezza, orticaria. Dio mio, ma è assurdo. Stanchezza, Sonnolenza. Sì! Inizio raggiante somministrarmi il Limpidex. Il dolore non si placa. Altro dottore, il Pendon. Una novità tra gli effetti indesiderati. Rischio di manifestazioni extrapiramidali. E ci mancano solo queste. Altri 150 euro per avere il Rani. Stessi principi. Così, idea geniale, ci diamo in pasto a naturopati, omeopati, avanguardia olistica, vega, sciamani, manga, ufo. Per l'omeopatia devi essere ricco e devi avere almeno 5 babysitter come Madonna, perché devi somministrare ogni mezz'ora al piccolo dei globuli. I globuli sono delle palline, piccole palline, che non devi toccare con le mani. E che non si sciolgono. Mai! Ciondolano nell'acqua e li devi agitare almeno 12 volte perché nell'omeopatia funziona la dinamizzazione. Il primo dottore che vediamo sfoglia ad ogni nostra parola un librone, ascolta e non parla, poi all'improvviso ci chiede: suda? D'estate sì. Scrive e ci prescrive la bella donna. Dracula sarà pure contento, ma non cambia nulla. È la volta della dottoressa omeopata, un po' cicciottella. Durante la prima visita sembra sicura e risoluta. Ah! A questo bambino faremo fare un percorso e gli prescrive lo stramonio. Brutta cicciona! Ma che cazzo dai a un bambino lo stramonio? Nei miei ricordi del liceo lo stramonio è un potente allucinogeno. Un ragazzo sotto stramonio è stato trovato a Ciampino che correva da ore cercando di planare. Guardo mio figlio. Mi sorride. È lui. Satana. Ora lo so. Ne ho la certezza. Vuole lo stramonio, è inaspettato. La bombardona ci prescrive anche la tarantola. A queste parole il tarantolato piroetta si leva nell'aria e lì nella stanza improvvisamente a voce alta mi esce un oddio! No, scusate che... è che lui è caduto, no? Aveva gli zoc... cioè le scarpine e siccome ballava, no, niente, è che magari sono semplicemente un po' stanca, Avesse ragione mio padre, forse è il caso di battezzarlo. Quando è nato si discute sull'argomento. Ma te l'immagini la figura? Il prete gli bagna la testa, lui diventa tutto rosso. Gli escono le corna e la coda. Poi gli zoccoli da un calcio al prete e i biglietti li tramortisce. Sbava roba verde, gira la testa a 360 gradi, sputa sul crocifisso, crolla la chiesa. Il giorno dopo siamo su tutti i giornali. No. E per aspettare. Quando sarà grande deciderà lui. Ha ragione mio marito, io queste cose non le devo pensare neanche per scherzo. Calma. Proviamo quello che dice la dottoressa, magari per contrasto la cura funziona. Proviamo. Non cambia nulla. Nel frattempo io avevo cominciato a vedere dei puntini rossi. Mi facevano male gli occhi. Avevo delle occhiaie color porpora e soprattutto una schiena a pezzi. Il mio lavoro, già precario e inesistente, era andato a farsi fottere. Prima scrivevo, volevo fare la giornalista, poi ho iniziato a lavorare con l'ufficio stampa. Ora, l'ufficio stampa è una che deve rompere continuamente i coglioni agli altri. Io non riuscivo a fare neanche una telefonata e nessuno lo capiva. Ma non è che lo stavo iniziando troppo? Io odiavo queste domande e chi le faceva? Ma l'avete trovato la babysitter? Tutte scappate! La prima improvvisamente doveva studiare, la seconda ha trovato un lavoro a tempo indeterminato, un'altra non risponde al telefono. Lo capisco, eh. Non è bello farsi prendere a pizze e urla da un pargoletto. Non ni niente. Giusto mio padre viene per disperazione un paio d'ore la mattina. Ora 2 ore su, lavatrice, fai i piatti e metti sul brodino. Ma io non mi reggevo in piedi. E cominciavo a mal sopportare tutta quella gente felice e contenta. Ma che cazzo ci avrai da ridere? Non mi riconoscevo più. Ero sempre stata solare, gioiosa. Adesso avevo la testa vuota, spenta. Ma guarda che fiorellino di bimbo che hai. Guarda quanto è bello, mi dicevo, sì, è bello. Tante donne non riescono ad averlo, un bambino, il tuo è un gioiello, lo so. Dio, tutto il mondo ha fatto dei figli, ma come fanno le altre mamme, come fanno? Dormono. È questa la spiegazione. Se non sei stanca, sei già un passo avanti. Presi dalla disperazione, io e mio marito abbiamo provato anche con il metodo barbaro di un tizio che ha scritto un libro che si chiama Fate la nanna. Ora nel libro c'è scritto di non preoccuparsi, di mettere i bambini nel loro lettino, allontanarsi e ritornare ogni 3, 5, 7 minuti. Nel frattempo i bambini possono vomitare, dare l'escandescenza, sbattere la bocca al lettino, sanguinare. Voi non vi preoccupate, spiegategli che gli volete bene e che però è meglio che dormano da soli, dovete essere forti. Io vorrei vedere cosa ha fatto lui con suo figlio. Perché il nostro strillava talmente tanto che ci hanno svegliato tutti i vicini. Niente da fare. Non solo dorme con noi, ma continua a prendere biberon con la... tra le 3 e le 5 del mattino, nel momento di massimo ristoro del sonno, quando sono tramortita con la testa sul comodino, sì. È così che dormo. Perché in mezzo c'è il suo cuscino. Io e mio marito cerchiamo di sentire il suo respiro. Appena sembra che si faccia più pesante e si stia addormentando profondamente, ecco che Dracula comincia a contorcersi, è più forte di lui, è il richiamo della notte. Si gira e tira a destra, si rigira dall'altra parte e ammolla un gancio a mio marito. Dopo mesi così siamo stanchi e pieni di lividi e iniziamo a essere cattivi. L'accortezza di un tempo ha lasciato spazio ad una sordida rabbia repressa. È lotta per la sopravvivenza. Cerco di spostarlo. Se capisci che qui non dorme bene, prima o poi se ne andrà. È questo che mi spinge a darti fiancate, per le braccia, le gambe, perché no? A tirare dei calci. Tra me e mio marito è iniziata una guerra mai dichiarata. Una notte l'ho sorpreso mentre tentava di avvicinarmelo. Anche io cerco di rendergli la vita difficile. Mi sposto finché il pipistrellino capisce che non è aria e si abbarbica al padre. Del resto sono io quella che dorme di meno. Sono io quella che si sveglia a fargli il biberon. Lui russa talmente tanto che neanche lo sente piangere. Ecco, quando gli altri ci chiedono ma come va la notte, lui ha anche il coraggio di dire beh, sai, è un bambino, fa il suo dovere e ride. Ma che ridi? Sono 2 anni che non dormo, a me non mi viene da ridere. E tu non devi dire che lui è diverso dagli altri, è un percorso, poi cresce. Anche a me mi stanno crescendo le palle, ma non mi sembra un percorso giusto. Io ho sonno! E non dormire è una lama nel cervello. Te lo buca, te lo spacca. Ti leva forza, energia, vitalità, ti leva la vita e soprattutto la voglia di vivere. Ricordo che quando era piccolino eravamo diventati quasi maniacali, perché quando sei stanco non ci stai più con la testa, non riesci neanche a ricordare se gli hai dato la medicina per il reflusso, per la stipsi, per il raffreddore, a che ora gliel'hai data. Tuttora, quando devo rimanere a casa sola con lui, mi prende una specie di ansia. Ripasso mentalmente dalla sera prima tutte le mosse. Metti sull'acqua con la sinistra se vuole stare in braccio. Accendi i cartoni prima. Tira fuori il brodino la mattina, se no devi prendere la sega. Mi sento in una specie di gabbia. E se ci penso è assurdo. Ma io ho paura di rimanere sola con mio figlio. Ho il terrore che inizi a piangere, a dimenarsi. Ogni suo piccolo rifiuto mi sembra una montagna da spostare, un ostacolo insormontabile. Dai, piano piano il tuo corpo si avvicinerà alla stanchezza, mi dicono tutti. No, non ti ci abitui alla stanchezza. Ti pieghi la stanchezza, è diverso. Allora, cominciamo a pensare di mandarlo all'asilo. Solo la mattina, 3 orette. A lui sta bene, impara ad interagire con gli altri. Balle! Non è vero che interagiscono. A 2 anni l'interazione tra di loro è tirarsi i capelli e mordersi a vicenda. Basta. Ma tu non lo vedi, il cuore non duole. Il paradosso è che più abiti in una zona popolata da coppie con bambini piccoli e più non trovi l'asilo, o meglio lo trovi, ma privato. E se non sei una donna abbandonata, minacciata dal marito per strada, senza soldi, possibilmente straniera e con un handicap, se sei una che ha un lavoro a partita IVA, di quelli che in qualche anno ci sono e altri per niente, è un disastro. Ovviamente mio marito nei 3 anni precedenti alla nascita del bambino aveva lavorato tanto. E proprio con la venuta del nostro figlio erano arrivati i lavori più importanti. Bimbo che nasce porta pagnotta, si dice. E io non lo sapevo. Avevamo il reddito più alto della soglia minima. Come se saperlo avrebbe potuto cambiare qualcosa. Così, paghiamo solo 280 euro. fino a mezzogiorno, senza pranzo. E i pannolini li devo portare io. Lasciarli i primi tempi è un'esperienza traumatizzante. Tu cerchi di metterlo in braccio alla maestra, lui ti bracca. Allora provi ad allontanarlo con prudenza, dolcezza. Puoi pur di non sentire quel pianto disperato dello spruzzicchi di dosso come faresti con una medusa urticante. Lo fai meccanicamente, quasi con rabbia, ma col cuore a pezzi. Esci, ti chiudi quella porta alle spalle e respiri. Mi sentivo sempre in colpa, un verme strisciante. Io sto bene quando sono sola. Mi sento meglio, libera. Il viso mi cambia, la pelle si distende. È normale, è normale. Devo prendermi i miei spazi, è normale. Ma si avvera quello che mi avevano predetto. Tesoro, preparati. Al primo anno d'asilo stanno sempre male. Allora, dai, sempre male, un raffreddorino ogni tanto. No. È vero. Stanno sempre male. Il mio ha preso di tutto, dalla congiuntivite, la bronchiolite, bronchiolina, bronchiolaccia, bronchite, virus a destra e a manca. Andava un giorno e ne stava a casa 12. E naturalmente tutti gli appuntamenti di lavoro presi durante la settimana saltati, lo stress aumentava. E quando sta male è la follia all'ennesima potenza. Per somministrargli acqua e medicine lo rincorro per casa brandendo la siringa e sudando, con la fastidiosissima consapevolezza di non avere poi il tempo di fare una freccia. Io corro con lo sguardo perso nel vuoto, lui con lo sguardo vigile e con il ciuccio serrato tra i denti, un muro inespugnabile. Si ferma, si gira, mi guarda, mi sorride sornione. Lui è il topo, io è il gatto. Il problema è che io lo lascerei pure ballare, ma non posso, e lui è consapevole. E allora accende la luce del forno, gira la manopola del griller e brucia tutte le pentole, accende le lavastoviglie, tutte le luci, allaga le stanze, tira giù tutti i libri dalla libreria, svuota i cassetti della cucina, della camera del ripostiglio. Una bomba è appena scoppiata in casa! Una bomba è scoppiata nel mio cervello. Nel mio cervello, nel mio cervello, nel mio cervello, dentro, dentro, dentro il mio cervello, dentro il mio cervello. Tutti dentro il mio cervello. Stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla. Mio padre dice che abito troppo distante, troppo distante, troppo distante. Hai ragione, anche tu farlo arrivare fino a qui, ma come faccio? Stai sola, come tutte le altre, distante, distante, il mio cervello è distante, distante. Mia sorella, avvicinati, che facciamo la spesa insieme, insieme, insieme la spesa. Lo porti pomeriggio e prendiamo il tè nel mio cervello, il tè nel mio cervello. Tranquilla, tranquilla. Lui sente il nervosismo, nervoso, nervoso, ho il cervello nervoso, a pezzi, i nervi a pezzi, a pezzi, a pezzi, a pezzi. Io ti faccio a pezzi! Prendi questo cazzo di medicina! Oh no, amore! Oh no, no, scusami, no, no, amore, stringimi forte, forte, forte, forte, stringi, stringi. No, prendi lo sciroppino buono, buono, va bene. Attento, guarda che lei è tutto bagnato, fermati, non ci mettere i piedini belli, no, guarda che ci hai bagnato tutte le ciabattine, hai visto che c'è acqua per terra, hai visto cosa hai fatto, hai buttato il ciottolino del termosifone, c'è tutta l'acqua per terra, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, asciuga, le lacrime, asciuga le lacrime, asciuga le lacrime, per terra, il parquet si bagna, il parquet, asciuga, ho bisogno di spegnere l'operaio della catena di montaggio sempre presente e rumorosa nel mio cervello. Al TG di oggi una notizia assurda. Una coppia ha comprato per 25.000 euro un bambino ucraino. Non bellissimo. Mio figlio varrebbe sicuramente il doppio. Ma che dici? Dai! fuori tutti i giocattoli, che prende la matita colorata e scrive su tutte le pareti, e adesso anche sul tavolo bianco di ciliegio. No, quello no, almeno quello no! E piange! Ma che piangi? Ciuccio, mamma adesso te lo prende il ciuccio in braccio! Vuoi stare in braccio? Mamma non ce la fa a prendere il braccio, non ce la fa! I medici me l'avevano detto, i bambini che hanno il reflusso vogliono stare in braccio alla mamma perché hanno paura che torni il dolore. Stare in casa con lui è come stare agli arresti domiciliari, da solo non gioca mai. Ma non hai trovato la babysitter? No, no, non l'ho trovata, no, no. Tutti i genitori lasciano i figli, io no. Tutte le mamme sanno cosa fare, io no, io no, io no, io no. Sono spinta, finita. Ho il cervello finito, spinito. Quel cazzone di Winnie the Pooh che dice con la sua vocina da maniaco sessuale una canzone! L'aria da malizia in casa! A casa tua, brutto panzone di merda, qui no! Io voglio uscire da questa casa, voglio uscire da queste quattro mura e soprattutto non voglio più vedere Manny Manny, Dodo, Toy Story, Cars, la televisione, l'albero azzurro, Ciccio, Pluto, qui qua qua, con lo sfigato di Paperino, Pippo! E se provassi a pippare anch'io? La mia unica consolazione, la mia vera pillola antidepressiva, è sentirmelo tutto spalmato addosso. Con le braccine che mi stringono il collo. Non sono malata. Se mio marito non lo capisce, è lui il malato. Tra di noi si è alzato ormai un muro invisibile ma invalicabile. Non comunichiamo più. La stanchezza e il nervosismo ci schiacciano, ci allontanano. Vuole che lo cambi tu? Tu non sei rilassata e lui non si rilassa. Allora vacci tu, ma chiama mamma! Accorro. E lo stringo forte, forte, forte, lui con quei dentini da topino mi guarda e mi dice: è la mamma! Sarà che mi sento in colpa, perché ultimamente lo lasciamo anche a mangiare all'asilo. Ma ogni tanto mi sembra di trattenere il fiato senza motivo. Non me ne accorgo subito. Contraggo lo stomaco fino a rimanere senza fiato. Ne uscirò fuori. Ne avrò di giorni felici. Ne avrò anch'io. Sì. E il mio bimbo sarà tranquillo. E lo porterò ai musei, ai concerti, al mare. Perché sarà un bimbo tranquillo. Tranquillo, che la mamma è tranquilla adesso, è tranquilla. Sto rimettendo insieme i pezzi ultimamente. Ricompongo il puzzle della mia vita e la reinvento. Una mamma serena, felice. Ho trovato la babysitter. E il mondo mi sembra migliore. Al parco, quando racconto che per me i primi 7-8 mesi sono stati un inferno, mi guardano sgranando gli occhi. Allora si può dire. Allora è vero che è difficile fare le mamme. E questo è quello che pensano tutte. Tutte le mamme ce l'hanno nel cervello la stanchezza. Tutte, solo che non lo possono far vedere. Non lo possono dire perché siamo mamme. Siamo tutte mamme. Mamme. Mamme. Mamme, mamme, mamme. Mucche! Mucche! Mamme, mamme, mamme, mamme, mamme! Io sono la mamma e io sono forte. Io sono forte, sì. E devo prendermi i miei spazi. Tranquilla, tranquilla, prendi i miei spazi. I miei, i tuoi. Io sono la mamma di me stessa, sì. E domani esco con le mie amiche. È tanto che non lo faccio. È arrivato il momento. Io sono pronta. Vita! La mia vita! Tutta per me, solo per me, per un giorno! Amore! Amore, adesso la mamma arriva, eh! Tranquillo, dai, amore, stai un attimino da solo, mi vedi a giocare in tutta stanzetta, che mamma adesso arriva. Vengo, vengo, amore, vengo! E non piangere, amore, puoi giocare una volta da solo, per favore? Oh, dai che la mamma arriva, gioca da solo come tutti gli altri bambini, avanti! Non piangere, guarda che cazzo mi hai fatto fare, guarda che mi sembra una matta! E smettila di piangere, vuoi giocare un po' da solo, per favore? Gioca un po' come tutti gli altri bambini, no! Non devi dire che lui è tutti gli altri bambini, per cui lui è diverso dagli altri bambini, dice il lupo cattivo. Ah, nonna, dice Cappuccetto Rosso, la smetti di piangere, per Dio, smettila! Smettila di piangere, per Dio! La vuoi smettere? La vuoi smettere? Guarda che adesso viene la strega, eh! Guarda che adesso viene la strega, piangere, per Dio, porca via! E viene anche il lupo cattivo che ti prende e ti mangia! Smettila! Smettila! Vuoi giocare un po' da solo? Una volta da solo! Per una volta, un secondo! Ci vuoi stare da solo? Smettila! Cervello, adesso la mamma esce. La mamma si fa bene? E la mamma!